Trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti. Il programma prevede di parlare di morte di un imputato, dei calcinacci di Gerico, nonché di ciò che accade sulla metropolitana di Berlino nelle ore di punta.